Oggi tutti parlano di loro come una famiglia serena, senza tensioni o depressioni. I racconti stridono con i fatti, una famiglia distrutta. Prima di tutto l'importante non è essere ma sembrare. Ogni giorno molte persone continuano a recitare. Vivono nell'apparenza, le abitudini non possono rinunciare. Dentro di loro la routine vorrebbero abbandonare. Così i sogni si trasformano in tradimenti. Non esiste la favola del vissero felice e contenti. La depressione avanza e non bastano i tranquillanti. Non bastano i figli per far finta di niente tirare avanti. Finché un giorno qualcuno sclera e succede l'imprevedibile. Scappa non torna più anche se a tutti sembra impossibile. Quanti sentimenti repressi tenuti dentro una vita in sordina in cui non si è mai al centro. Schiavi in una vita di coppia soffocante, senza sorprese, solo una pressione pesante. L'apparenza è felice, non parla con nessuno, tutti ignorano persino il suo digiuno. Il marito geloso controlla ogni messaggio, ma quando è da solo parte subito all'abordaggio. Ormai le attenzioni per la moglie sono scomparse, quante famiglie per bene ogni giorno recitano queste farse. E non è come la cura di Battiato, il sentimento qui ormai è congelato. Due estranei sotto lo stesso tetto, rimane solo indifferente ma con un po' di rispetto. L'ennesima strage familiare in questo caso appare ancora più incomprensibile. E nonostante tutto, vanno sempre avanti, senza speranze, ogni giorno sempre più distanti. Anonima indifferente, una vita banale. Quando impazziranno la gente si stupirà e dirà che era una famiglia normale. Lei l'ha sposato per il fascino della divisa. Lei l'ha sposato per il fascino della carta visa. Lui è un uomo in carriera pronto per il successo, ma nei suoi viaggi d'affari spesso cambia sesso. Ama le armi ma solo per legittima difesa. Ogni domenica sembra fare la comunione in chiesa. Ogni domenica in ansia per il risultato della partita. Ogni sera una scusa per giustificare un'uscita. Ha un piano in mente, gli sembra pure banale eliminare per sempre ciò che lo fa stare male. La pistola lo aiuterà in questa sua missione. Improvvisamente va a casa e fa un'irruzione, spara alla moglie e i figli, poi tenta di togliersi la vita, ma si provoca solo qualche ferita. Poi c'era la storia di un'aggressione. Non viviamo più sicuri in questa nazione, ma la famiglia a volte è il posto più pericoloso in cui si possa stare. A volte è peggio di andare di notte porta a palazzo a passeggiare. Il massimo femminicidio ne parleranno a quarto grado. Ormai tutto uno show in questa società in degrado. L'ennesimo funerale in diretta in TV. Diranno una cosa del genere, non deve accadere mai più. Nessun imprevisto, lacrime, un colpione già visto. E la critica al prete dirà che dobbiamo fidarci a Cristo. Loro è una famiglia molto per bene, veramente per bene, tradizionale. Nonostante tutto, siete sempre in tanti, brave persone, eleganti, ben pensanti, pensanti. Volete insegnare a vivere, chi non è come voi è il male. E davanti ad una strage vi stupite sempre perché era una famiglia normale. Figli usati come armi di ricatto nelle questioni di coppie, fin da piccoli abituati ad una vita dove con l'illusione che saranno felici li crescono viziati. Ma non sono i soldi che aiutano ad essere amati, non è il videogioco, non è il vestito firmato, non è la moto, l'iPhone, un mondo dorato, quello che manca lo cercheranno nella droga, nel branco. Gli esempi si prendono sempre da chi ti sta a fianco. Diventeranno bulli con la violenza, guadagneranno rispetto. Se vizieranno, terrorizzeranno chi non è come loro solo per dispetto. Violenteranno, rapineranno, i genitori sembrano sempre strani. Mettono su YouTube le loro imprese filmate dai coetanei. Le ragazzine si vendono per una ricarica, una borsa firmata. Per un tablet o uno smartphone ti danno una coltellata. Sempre difesi, protetti, saranno sempre innocenti. Sono i genitori che li vogliono vincenti. Sono i genitori che li vogliono campioni. Iscrivono a tutti i corsi, concorsi, competizioni. Ogni sconfitta li renderà sempre più felici e bastardi. Pronti a superarti, lasciarti se cadi o ritardi. Istigano al suicidio in attesa della prossima strage annunciata. Per le vie del paese organizzeranno la fiaccolata. Tutti a manifestare al Family Day contro il terribile problema dei diritti delle coppie gay. Nonostante tutto, uscite sempre non colpevoli, protetti, perfetti, difesi, falsi, amichevoli. Calpestate tutti, anche chi vi voleva amare. L'importante è non screditare la vostra famiglia normale. Io scappo dal conformismo, scappo dalle istituzioni, scappo dai conservatori e dalle oppressioni, da chi giudica, invidia e soffoca le emozioni, da chi con vita impone le sue opinioni da chi decide cose bene e cose male, cos'è giusto o sbagliato e cos'è normale. Ne ha dato pillole per conformarvi, ne ha dato firme e mode per accontentarvi, ne ha dato un po' di soldi, poi se li sono ripresi, mi ha detto che sono i cattivi e voi vi siete arresi. Così credete di essere felici in questi inquietudini, tutto diventa bello, basta un po' di abitudine. Vi date regole che poi siete i primi a non rispettare, quello che non capite lo volete denigrare. Cosa vi resta della vostra vita realizzata? Le cene, gli happy hour e qualche altra cazzata. Figgete allegria mentre cadete in un vuoto abissale, siete più falsi di un'offerta al centro commerciale. Siete poveri ma non si deve vedere, fate un altro figlio anche se non sapete come mantenere. Tutti in fila a lavorare, tutti in fila per pagare, tutti in fila al semaforo senza sapere dove andare. Vi preoccupate della palestra, delle unghie, della partita, e che la facciata sia sempre ordinata e pulita. E nonostante tutto, voi siete sempre i modelli da seguire per essere integrati e per apparire. Voi impiegati di quinto livello, vi preoccupate dell'andamento aziendale, e a casa vi aspetta la vostra fottuta famiglia normale. E nonostante tutto, io resisto ancora, non voglio essere come voi, non è ancora la mia ora. Opportunisti per voi, conta solo ciò che è venale, potete andare a fare in culo voi e la vostra famiglia normale. Il padre avrebbe sparato prima alla moglie, poi alla figlia minore. Le due donne sono state uccise da un colpo alla testa ieri pomeriggio, quasi un'esecuzione, mentre stavano riposando. Poi, fino a sera, l'uomo ha atteso il ritorno del figlio e appena è rientrato ha sparato anche a lui in testa. Infine, si è tolto la vita.